e ti parlerò di me, dei miei dubbi, dei miei perché. Ma all'improvviso, sai, ho conosciuto lei. Mi ha stravolto il cuore, non lo sa. Non è un sogno, ma semplice realtà. Tu sei la mia stella, sei. Tu sei la mia notte, sei. Tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te, ho scoperto il mio perché. Sei la mia ragione di vita, io voglio te. E ti parlerò di noi, tanti baci quanti ne vuoi. La tua mano nella mia, viaggiamo nella fantasia. Io non voglio il paradiso ormai, ma so solo che tu mi basterai. Tu sei la mia stella, sei. Tu sei la mia notte, sei. Tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te, ho scoperto il mio perché. Sei la mia ragione di vita, io voglio te. Non è un sogno, ma semplice realtà. Mi ha stravolto il cuore e l'anima. Sì, tu sei la mia stella, sei. Tu sei la mia notte, sei. Tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te, ho scoperto il mio perché. Sei la mia ragione di vita, io voglio te. Sempre.